faceva il poliziotto nella sesta compagnia, ma le scatole si è rotto e se n'è venuto via. 24 ore al giorno lo faceva lavorare e per via della divisa non poteva reclamare. E vedeva gli operai tutti uniti scioperare, e perché lui si chiedeva li mandassero a picchiare. 1.100.000 al mese guadagnava il suo questore, per di più senza divisa, lavorando poche ore. E quel giorno era lì all'Aviro di Bologna, con fucile e tasca pane per picchiare gli operai. Ma ad un tratto qualche cosa gli si scosse nel suo petto e togliendosi l'elmetto ai compagni disse così: noi siamo degli sfruttati, ancor più degli operai, quelli che fanno il picchetto stanno lottando anche per noi, e perciò da oggi in poi io non voglio più restare i compagni operai, io non voglio più picchiare. E faceva il poliziotto nella sesta compagnia, ma le scatole si è rotto e se n'è venuto via. 1, 10, 100, 1.000, su avanti, chi aspettate? Se vi unite agli operai, non sarete